Estate di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Durante l'estate il ghiaccio si scioglie, a cominciare dalle zone più vicine alla Terra, provocando la formazione di estesi acquitrini. Con il sopraggiungere dell'inverno, il mare torna a gelare fino a saldarsi con la terraferma. Eccezionale! Il mare Artico non congela a 0 gradi, bensì a meno 2 gradi centigradi, a causa della presenza del sale. Dapprima si forma uno strato di ghiaccio molto sottile, quindi il congelamento progredisce rapidamente e si formano lastroni di diverso spessore. Eccezionale! Il processo di congelamento prosegue lentamente e durante questa fase il sale marino viene parzialmente eliminato dal ghiaccio, sciogliendosi nelle acque sottostanti, che vedono così aumentare enormemente la loro salinità. Esperienza in più per tanti di noi può essere fondamentale quest'anno. Quando parlo di esperienza mi riferisco anche a tutto il percorso che abbiamo fatto e anche alla partita dell'anno scorso contro il New Zealand, dove comunque pareggiando rischiamo veramente di mettere in pericolo la qualificazione. Dentro Bexton, pallone in aria e arriva il gol di Jorgensen, in mischia, ha sfruttato un doppio rimpallo e ha trovato da due passi il modo di battere Buffon. Arriva Peluso, in aria c'è anche Pogba. Per Tevez, Quagliarella! E arriva il pareggio della Juventus all'ottavo minuto e mezzo del secondo tempo. Io penso che nessuno ha sottovalutato nessuno, anche perché venivamo dall'esperienza l'anno scorso dove abbiamo pareggiato. Anche l'anno scorso fu una partita, secondo me, questa volta ancora peggio a livello di tiro avversario. Quindi. Però a casa mia mi insegnano che non basta avere 10 occasioni clamorose, la palla devi buttare dentro, altrimenti la partita non la vinci, ed è successo questo. 800 24 00 24, oggi convochiamo tutti, meravigliosa la copertina, Franco Piantenida, Roby Scaltritti, c'è Claudia Schiattone che sta toccando tutto quello che può toccare in redazione, l'era glaciale della Juventus, oggi convochiamo tutti, juventini, non juventini, che magari questa sera 20:45 Juventus Malmo decideranno di gufare contro la Juventus. Oggi convochiamo tutti a patto che ci sappiate dire qualcosa di Nicolai Jorgensen e Mikkel Beckham. Chi erano costoro? Nicolai Jorgensen e Mikkel Beckham. L'era glaciale della Juventus che questa sera riparte dal Malmo, squadra numero 137 del ranking UEFA, la peggiore fra tutte le 32 iscritte alla Champions League. Riparte con l'obiettivo, ha detto ieri Allegri, di entrare almeno nelle prime 8. L'obiettivo di fare meglio rispetto alla Juventus di Antonio Conte, perché questa è anche la prima Champions League di Allegri e la prima Champions League dopo l'era di Antonio Conte. 800 24 00 24, se volete chiamare, telefoni aperti, 349 238 6666, per i vostri messaggi. Facciamo insieme anche le carte alla Champions League. Mi interessa ad esempio sapere chi è per voi favorito oggi. Paolo Condò sulla Gazzetta dello Sport, la sua griglia ideale: in prima fila ci sono Chelsea e Bayern Monaco, in seconda fila Real Madrid e Barcellona, poi Paris Saint-Germain e Atletico, quindi Manchester City e Juventus, e la Roma persa nelle retrovie. Però mi interessa sapere cosa ne pensate. 800 24 00 24, torniamo subito. Traffico. So cosa sia questa Champions. Ecco. È una parola inglese che non so a che cosa alluda. Tutti convocati. Per quanto riguarda Pirlo e Vidal, sono stati fatti gli accertamenti oggi, poi ci sarà sicuramente un responso del medico, che però sarà sicuramente questo, che Pirlo sta procedendo bene, aumenterà il lavoro in settimana e poi ci sarà una rivalutazione a fine settimana, inizio della prossima. Per quanto riguarda Vidal, sta lavorando sperando di averlo per sabato a Milano. No, non è necessario un cambiamento di mentalità, ci vuole serenità, non bisogna farsi prendere dall'ansia, è una partita importante. In Europa dobbiamo sapere che giochiamo contro squadre più o meno forti, che hanno una mentalità dove giocano, dove cercano di vincere le partite, anche perché per passare il turno in Champions devi fare dei punti, per fare dei punti devi vincere le partite e per vincere le partite devi cercare di attaccare. Quello che affronteremo domani, il Malmo è una squadra che è sicuramente più avanti di noi in condizioni, perché il campionato è molto avanti, è una squadra ben organizzata che fa della fisicità e della velocità la loro forza, e quindi bisognerà fare una partita molto attenta, con grande tecnica, con grande velocità e avendo sempre un'ottima sicurezza difensiva. E questa è la vigilia della Juventus. Oggi non c'è soltanto Juventus Malmo che apre la Champions League dei bianconeri, apre in realtà anche la Champions League delle italiane, e poi vi faremo sentire che cosa hanno detto oggi Rudy Garcia e Francesco Totti. La Roma gioca domani sera contro il CSKA Mosca, una gara già decisiva. Oggi c'è altro nel tabellone. C'è Borussia Dortmund Arsenal, ad esempio, c'è Real Madrid Basilea, che per Ancelotti rappresenta già uno snodo importante, e poi c'è anche il debutto di Balotelli in Champions League con la maglia del Liverpool contro il Ludogorets. 800 24 00 24, vi aspetto per fare le carte a questa Champions League. Massimiliano da Napoli. Massimiliano. Salve, buongiorno. Prego. Io volevo parlare riguardo alla partita stasera della Juve, fiduciosissimo, il noi juventino fiduciosissimo. Sì. Ma grazie al mister Allegri, Sì. Perché mister ha esperienza. Che dà più garanzie di Conte. Ma più garanzie di Conte in campionato no, però per le partite internazionali noi abbiamo visto in Milano cosa ha fatto contro il Barcellona, giocandosela sempre. Poi è uscito vabbè con l'Atletico, che abbiamo visto arrivare in finale l'anno scorso, quindi non è una squadretta così. Sì, tra l'altro non c'era neanche Allegri contro l'Atletico, sarebbe finito uguale. Cioè, veramente, Allegri in Champions, io sono fiduciosissimo per il mister. Sì, c'è in generale una sensazione di maggiore fiducia anche un po' in tutto l'ambiente della Juventus, l'idea che si possa fare meglio, però bisogna partire bene già questa sera, perché l'esperienza delle ultime due stagioni dice che poi si può scivolare anche su delle bucce di banana, e questo Malmo, ripeto, numero 137 della classifica del ranking UEFA, può essere la classica buccia di banana. Anche stasera c'è il fantasma che viene agitato davanti agli occhi, si chiama Marcus Rosenberg, classe 1982, una carriera in seconda fila tra Svezia, Spagna, Germania e Inghilterra, l'anno scorso 33 presenze e 0 gol col West Bromwich, però ditemi voi se può far paura questa sera Marcus Rosenberg. Fabrizio dalla provincia di Cuneo, Fabrizio. Ciao a tutti, grazie per essere stato convocato. Ciao a te. Ciao, ma sicuramente paura no, però senza tanti gufi sicuramente, e con un po' di ottimismo, la Juventus quest'anno può fare una bella Champions. Credo, in sostanza, l'allenatore sicuramente ha un gioco più europeo, come dicono tutti, la rosa è più completa rispetto all'anno scorso, quindi sicuramente agli ottavi e quarti ci si può arrivare con tranquillità, ecco, sono molto fiducioso. Sì, letto Conte che ha detto la Juve può far bene, ha fatto esperienze in questi due anni e l'esperienza in Europa è importante. Mi viene anche da chiedere, non so cosa ne pensi Fabrizio, che cosa sia cambiato in tre mesi fa. Sempre secondo Conte la Juventus aveva 10 euro in tasca, e con 10 euro non si può sedersi nel ristorante in cui costa 100 euro mangiare. Non capisco come possa essere cambiato tutto. Non è cambiato sicuramente tutto, anzi, Conte, se mi, cioè, adesso magari non è il caso di usare termini non appropriati, però è un po'. Diciamo che non è più l'allenatore della Juventus, quindi giustamente parla da esterno. La Juventus sicuramente non può pensare di competere con Manchester, con Real Madrid, però può fare una buona Champions, può arrivare tranquillamente tra le prime otto, ecco, non ci illudiamo che possa vincerla, però può fare bene. Sicuramente Conte l'anno scorso, non dico che l'abbia snobbata la Champions, però poteva dedicare, poteva risparmiare qualche energia magari ai giocatori in campionato e dedicargli più, più attenzione in Champions. Sicuramente in Europa League ha sbagliato. Sì, c'è stato un momento in cui in Europa League ha fatto questo ragionamento e probabilmente ha sbagliato. Grazie Fabrizio. Sentiamo altre voci della vigilia? Voci. L'obiettivo è un obiettivo importante, cioè quello di passare il girone. E dopo poi a febbraio, quando inizierà la Champions, sarà completamente un altro calcio, perché come dico sempre, a febbraio la condizione fisica praticamente è distante 5 mesi, e quindi in 5 mesi può succedere di tutto. C'è grande entusiasmo da parte mia, ma un po' da tutta la squadra, da tutta la città, e credo che questo sia il sentimento che ci deve accompagnare principalmente durante questa avventura, non la voglia di rivalsa o di rifarci da magari le delusioni dell'anno scorso, ma proprio la voglia di stupire e di fare grandi cose. Io credo che ve lo possa confermare anche poi il mister qui accanto, stiamo lavorando per cercare di ridurre al minimo gli errori, perché anche se abbiamo vinto per 3 anni di fila non vuol dire che siamo perfetti, anzi c'è sempre tanto da migliorare sia personalmente che a livello di squadra. Sicuramente in queste prime 2 partite l'ho potuto vivere da fuori e quindi ho anche magari visto più lucidamente, siamo stati veramente molto bravi a... Abbiamo fatto 2 primi tempi, credo, insomma, bellissimi, di un'intensità incredibile, dove l'unica pecca era vincere solo con un gol di scarto, perché avremmo meritato almeno 2. E queste sono le voci della vigilia. Il programma di oggi, programma completo, dicevamo, c'è Juventus Malmo e poi l'altra partita del girone che interessa la squadra di Allegri, che è Olympiacos contro Atletico Madrid. Poi c'è il debutto di Balotelli con la maglia del Liverpool in Champions League, Liverpool-Ludogorets, e poi c'è Real Madrid-Basilea, c'è Monaco, Bayer-Leverkusen, c'è Benfica contro lo Zenit San Pietroburgo, c'è Galatasaray-Anderlecht e c'è Borussia Dortmund-Arsenal. Poi domani arriva già il piatto ricco, perché domani c'è la partita alla Roma e ne parleremo. Noi andiamo avanti fino alle 14, 800-24-00-24, e c'è soprattutto Bayern Monaco-Manchester City, che potrebbe già essere una semifinale. C'è Barcellona contro Apoel, Ajax Paris Saint-Germain, Chelsea Schalke, Maribor Sporting, Porto batte Borisov, Athletic Bilbao, Shakhtar, c'è insomma da cominciare a vedere un po' tutte le favorite di questa Coppa. 800-24-00-24, se volete darci anche il vostro pronostico, la sensazione è che non ci sia più il Real Madrid in prima fila, non ci sia più il Real Madrid grande favorito, e che però è stato smontato un pezzo dopo l'altro, e quindi vede Ancelotti davvero in difficoltà. Ferdinando da Napoli, Ferdinando, prego. Ciao, buongiorno. Prego. Allora, volevo farti una domanda. Quanti mesi sono passati dalla finale di Coppa Italia? 3 mesi, credo. 3 maggio, 4 mesi. 4 mesi. Dopo 4 mesi scopriamo, esce la notizia ieri, secondo me la notizia bomba, che Daniele De Santis, quello che ha sparato a Ciro Esposito, presenta dei segni di coltello. Ma la domanda che mi faccio io... Ma forse i medici si sono sbagliati, sono le stimmate, non sono i segni del coltello, le stimmate del santo probabilmente. Sì, io credo, Ferdinando, mi pare di cogliere ironia, sarcasmo, io però credo che ci voglia rispetto per il lavoro degli inquirenti, dei medici. Credo che quella di De Santis, di Ciro Esposito, sia una vicenda difficile, sarà una vicenda che avrà alla fine una sua verità processuale e che andrà in qualche modo rispettata, o no, Ferdinando? Sì, noi ci prepariamo intanto per la beatificazione di Daniele De Santis. Ma io non credo che ci sia in corso nessuna beatificazione. Se c'è una perizia che dice che è stato ferito con colpi di coltello, io non capisco nemmeno che interesse potrebbe esserci oggi a raccontare una cosa che non è vera. Che interesse c'è? Ma L'interesse in Italia non si è mai capito bene che cosa quale possa essere. È lo stesso interesse che ha fatto sì che c'è stata una latitanza assoluta delle forze dell'ordine per una partita così importante. Ci sono stati errori di organizzazione, questo mi sembra sia stato sottolineato in maniera abbastanza chiara. Poi quello che è successo dopo le indagini, che tra l'altro non sono ancora finite, aspettiamo che si chiuda tutto per poterlo raccontare e poi eventualmente anche commentare. Grazie Ferdinando. 800 24 00 24, Borsa. Ma innanzitutto credo che la rosa della Juventus sia una rosa competitiva per cercare di portare avanti entrambe le cose. Sappiamo che in Europa vincere è molto difficile, però nel calcio non c'è niente di proibitivo. La dimostrazione che sabato hanno giocato 3 giocatori nuovi, i nuovi acquisti, è rientrato Morata, ha fatto una buona partita Pereira e questo mi consentirà sicuramente di cercare di gestire al meglio le energie durante la stagione, perché l'obiettivo principale è quello di arrivare ad avere tutta la rosa in grado di poter sostenere delle partite a livello agonistico, a livello tecnico, più o meno sullo stesso livello. Questo garantirebbe di cercare di fare dei risultati in campionato e in Champions. Si ricomincia. Tutti convocati. 800 24 00 24, Nicolai Jorgensen e Mikkel Beckman. Chi erano costoro? Guido Vaciago, Tutto Sport. Ciao Guido. Eccoci qua. Chi erano? Erano... Me le ripeti che non li ho sentiti? Nicolai Jorgensen e Mikkel Beckman. Ah, i due giustizieri cos'erano? Copenaghen e Nordjylland. Sì, Copenaghen e Nordjylland. No, questo per dire che oggi Allegri su Twitter ha scritto: attenzione a non cadere nelle trappole, magari questo Malmo può essere una trappola per la Juve. Sì, diciamo che se non è maturata, se non ha imparato dagli sbagli del passato, sì, è una trappola, è la più classica delle trappole. Diciamo che negli ultimi 2 anni la Juventus ha commesso tutti gli errori possibili che si possano immaginare in una coppa, in una competizione europea, il primo dei quali è sottovalutare le squadre piccole e non affrontare queste partite con l'approccio mentale giusto. Io mi auguro per la Juventus che questo problema si sia superato, insomma, che questo blocco psicologico, chiamiamolo anche tattico, tutto quel complesso di cose che ha fatto sì che la Juventus riuscisse a non battere né il Copenaghen né il Nordjylland nella partita inaugurale della Champions nelle ultime 2 edizioni. Pier, come va? Bene, tu? Bene, bene. Ma può avere paura la Juve di Marcus Rosenberg? Ma guarda, dopo... può avere paura di tutti? Ecco, cioè, guarda, direi di no, però poi penso all'anno scorso a Copenaghen, per dirti, la prima partita del girone era a Copenaghen, una partita assurda, 57 palle gol, però poi è pareggiato. Quindi la Champions è una competizione breve, è una competizione dove i dettagli contano sicuramente di più rispetto al campionato, alle 38 partite, quindi è evidente, è assolutamente evidente che non si possa lasciare nulla per scontato, su questo non ci sono assolutamente dubbi. Ma voi convince che il cambio Conte-Allegri possa aver restituito fiducia nell'affrontare una competizione europea, come se Conte se ne andasse con l'etichetta di quello che in Europa non vince, non è capace di affrontare le partite, e adesso invece arriva lo specialista, Guido? No, per me è una fesseria, nel senso che il percorso europeo di Allegri e quello di Conte sono sostanzialmente analoghi. Quello che può essere è che la squadra, proprio crescendo con Conte, ha accumulato più esperienza e Allegri può portare, quello sì, quella sorta di attitudine europea che il Milan ha sempre avuto un pochino di più rispetto alla Juve. Però non si tratta di un allenatore europeo e di uno no, anche perché altrimenti come la mettiamo col fatto che Conte è arrivato in nazionale, ha fatto 2 brillantissime partite contro l'Olanda e contro la Norvegia, che non erano partite di campionato ma erano partite internazionali. Quindi secondo me si tratta, Conte ha iniziato un progetto con una squadra giovane, con una squadra quasi vergine dal punto di vista europeo, e le ha fatto fare i primi 2 anni. Adesso adesso Allegri eredita una squadra più esperta, quindi se per caso questa sera la Juventus dovesse battere agevolmente il Malmo, in parte anche merito di Conte del fatto che in questi anni ha commesso degli errori e ha in qualche modo fatto crescere la squadra, e che probabilmente anche lo stesso Conte stasera approfitterebbe di questa esperienza, quindi io non credo a questa differenza. Te l'ha detto Pier Conte, la Juve può fare bene anche perché ha fatto esperienza. Io ho chiesto prima, lo chiedo ancora a casa, 800 24 00 24, cioè cos'è cambiato in tre mesi, perché tre mesi fa la Juventus era quella che aveva 10 euro in tasca e non poteva sedersi al ristorante da 100, questa sera per Conte, che non è più l'allenatore della Juventus, è diventata una squadra che può fare bene in Champions perché ha fatto esperienza, perché ha un organico profondo e perché insomma si può andare avanti. Sì, io infatti anch'io non credo molto alla cosa dell'allenatore da campionato della Coppa, anche se ci sono nella storia, per esempio Benitez è un allenatore da Coppa, Ancelotti pure è un allenatore da Coppa, ma insomma poi spesso noi siamo legati all'etichetta che deriva dall'andamento di una partita, di una finale, di un pallone che entra o che esce per pochi centimetri. Non voglio relativizzare tutto, però io penso che la carriera di un giocatore o di un allenatore la si debba valutare nel tempo, negli anni, e quindi la carriera di Conte al momento ci sfugge. Posso solo dire che è un allenatore bravo, un allenatore di grande, molto, ancora molto giovane, molto promettente, che ha già vinto tantissimo e secondo me era la scelta migliore per la nazionale, e non penso che sia uscito in Europa perché non sia predisposto al gioco europeo o perché non sappia giocare le partite testa a testa. Penso che magari abbia fatto degli errori, ad esempio l'ho detto mille volte, secondo me in generale l'anno scorso la Juve si è preoccupata troppo della Roma nelle ultime giornate o del record di 100 punti, quando c'era una cosa fighissima che era l'Europa League da poter vincere in casa. Non è che la Juve sia voluta uscire, è stata anche sfortunata nelle due partite, soprattutto a Torino, però secondo me doveva in quel momento priorizzare nettamente su quella roba lì. Sì, è stata un po' sottovalutata l'Europa League, salvo poi ripensarci gli ultimi giorni prima della semifinale col Benfica, dove mi pare anche Conte avesse capito l'importanza della cosa. Però mi preme di capire se secondo voi questa Juventus è più o meno forte, più o meno attrezzata dell'anno scorso per la Champions, Pier? Secondo me siamo lì. Anzi, forse diciamo che l'unica incognita sulla Juve di quest'anno, secondo me, deriva non tanto da Allegri, quanto dal logorio fisico e psicologico di tre anni di vittorie, di scudetti, di successi, ma anche di fatica. Conte, da questo punto di vista, c'è la possibilità che sia uno di quegli allenatori che ti... Ma io sono l'unico che sente una specie di rumore tipo... gli animali sgozzati, no? No, noi tradizionalmente ti sentiamo male, Pier, ma no, non ci facciamo più caso. Come vi sentite oggi? No, c'è un certo rimbombo, mettiamola così. No, ma a parte il certo rimbombo, dico, io sento... No, non sentiamo animali sgozzati, no. Guido, senti animali sgozzati, no? No, incoraggiante. Ecco. Tra l'altro, ribadisco la mia passione per gli animali, come ho scritto l'altro giorno, al netto di qualche animalista che quasi mi fa passare la voglia, invece li amo infinitamente. Chiusa la parentesi, quindi no, questa secondo me è l'unica vera incognita della stagione della Juve, perché la Juve veramente ha speso molto in questi anni e quindi bisogna capire in che condizioni sarà la vecchia guardia, ecco, se avrà la stessa tenuta mentale, psicologica, fisica del passato. Ma per il resto la squadra c'è, è consapevole della sua forza, è una squadra vincente, però secondo me è una squadra che oggi è in valore assoluto la sesta, settima, ottava squadra d'Europa, per cui può arrivare nei quarti, può anche centrare in un'impresa e magari avvicinarsi, però quella è la sua dimensione. Vince Sergio, come diceva ieri Mughini, è insomma un sogno quasi. Sì, poi c'è il fattore C che in Champions conta, però non si può costruire tutto intorno a quello. Sentite cosa vi faccio ascoltare. Charge down by Sissoko. È vero che poi è arrivato il gol contro il Benfica l'anno scorso, però oggi sono 5 anni, 5 mesi e 9 giorni che Tevez non segna in Champions League. Guido Vacciago, è la sera buona? Non lo so. Sì, bisognerebbe avere la sfera di cristallo. Però sì, Sì, potrebbe essere la sera buona. Io non credo che sia importante, scusate se pesco nel più banale manuale della perfetta dichiarazione del giocatore, però io credo che non sia importante se Tevez segni o meno. L'importante è che faccia vincere la squadra. Tevez è un trascinatore. Quello che è mancato di Tevez nell'Europa dell'anno scorso, sia in Champions che poi in Europa League, è proprio quell'effetto da trascinatore che invece lui è riuscito molto bene ad applicare in campionato. È mancato quel tipo di Tevez, più che il Tevez goleador che a momenti vinceva la classifica cannonieri, perché poi la Juve è una squadra che ormai da 3 anni ha fatto vedere che riesce a far gol con tutti, con i centrocampisti, con i difensori, che non ha bisogno del bomber a cui fare riferimento, ha bisogno di persone che trascinino tutta la squadra, ha bisogno di questa grande intensità agonistica di cui Tevez è stato un autore, un protagonista in campionato, e che invece è andato un po' sottotono in Europa. Quindi stasera, più del gol, credo che Allegri speri che di avere un Tevez trascinatore più che goleador. Secondo me Pierre invece non è rilevante che segni o no, perché Tevez deve essere il valore aggiunto della Juventus a questi livelli. Tevez deve essere il valore aggiunto, lo è, c'è un discorso che non segnava da 5 anni, ha segnato in Europa League, adesso deve tornare a segnare anche in Champions League, ma anche qui Tevez è vero che non ha segnato per 5 anni, ma in 5 anni quante partite ha giocato? Veramente. Se in Argentina c'era una scuola di pensiero di gente arrabbiata con Savela perché non l'ha portato al mondiale, non penso che siano tutti bolliti. Tevez è un giocatore di valore assoluto, è subito dietro ai fuori classe, asse, quelli proprio a 7 stelle, 8 stelle, i giocatori come Cristiano Ronaldo e Messi ovviamente sono di un'altra categoria, però nella categoria subito sotto secondo me Tevez ci sta per le caratteristiche e per le qualità che ha, così come ci sta Higuain, tanto esempio, sono forse i 2 giocatori del nostro campionato che hanno più talento, che possono essere più decisivi e che sono più europei. Deve fare la differenza, certo, deve fare la differenza, ma all'interno di una squadra che funziona. Secondo me l'anno scorso in Europa troppe volte abbiamo visto la Juve giocare male, la prima partita con Copenaghen l'abbiamo già ricordata, il pareggio in casa col Galatasaray fu una cosa assurda. A me paradossalmente mi era piaciuto soprattutto con Real Madrid, le 2 partite migliori della Juve l'anno scorso in Champions League per me sono state le 2 con Real, perché a Madrid hai perso con un episodio legato a Chiellini e comunque con delle ingenuità, e al ritorno hai giocato una partita condizionata dall'errore sull'1-1, della quale però sei stato anche molto bravo nel trovare poi il pareggio nel finale con Llorente. Segnale che conta soprattutto l'approccio mentale al di là della qualità tecnica. C'è il traffico, ciao Guido. Ciao Guido Vaciago. Pier, stai lì, traffico. Carlos per noi è un giocatore fondamentale, lo ha dimostrato in tutte le partite da quando è arrivato, però credo che l'importante è che sia la Champions della Juve. Poi Carlos è il primo che non è affatto egoista e che non è interessato a segnare lui, ma a far segnare la squadra e a vincere con la squadra. Poi se domani comincia subito come ha cominciato in campionato sabato, siamo tutti più contenti. Tutti convocati. A los 30 que hemos jugado en la Noeta, sobre todo un problema de costumbre a jugar en una manera. Tenemos que acostumbrar jugadores nuevos como James, como Kroos. Tenemos que buscar más naturalidad en el juego. Entonces no creo que es una falta de actitud, porque los jugadores como eran profesionales después el 12 de agosto cuando ganamos la Supercopa, son profesionales ahora. Estoy contento de esta plantilla. Creo que en este momento es muy importante una concentración maximal, porque en el fútbol es normal pasar este momento. Con l'aiuto del nostro pubblico dobbiamo cercare di vincere questa partita, quindi non dobbiamo scegliere, dobbiamo giocare tutte le partite al 100%. Dipende molto da noi, dal nostro atteggiamento e dalla nostra intensità di gioco. But listen, he's also experienced as well. You know, I think he's arguably one of the most experienced players that we have in terms of this level of competition, in terms of international caliber and a club level. So I think for him, I think and the best players, they enjoy that responsibility. So I think it's one that I'm sure he's relishing, and but on the training field he's going to work hard to accept that responsibility and know that he's been brought in here to do a job, which is to create goals and score goals and work hard. Oggi c'è anche la prima di Prandelli in Champions League con il Galatasaray. Poi avete sentito Ancelotti che attraversa un brutto momento, avete sentito Rodgers che a Balotelli ha detto: beh, mi aspetto che si prenda le sue responsabilità, è il giocatore con maggiore esperienza in questo livello di competizioni e deve fare hard work, deve farsi il mazzo. Riccardo Trevisani, ciao. Buongiorno a tutti. Collega di Sky, deve farsi il mazzo Balotelli. Dove va Liverpool in questa Champions? Dove lo mettiamo nella griglia di partenza? Beh, per il momento non lo mettiamo nemmeno tanto bene in Premier League, quindi bisogna capire il livello della squadra se sarà quello dell'anno scorso. L'anno scorso è una squadra favolosa, veramente fantastica, giocava benissimo. Adesso deve un po' trovare i meccanismi, deve inserire Balotelli. Per il momento è una squadra rimandata, però nel girone con un Real Madrid così magari può fare il colpo. Pier, ho letto prima la griglia di partenza di Paolo Condò oggi sulla Gazzetta: Chelsea-Bayern, Real Barcellona, poi Paris Saint-Germain-Atletico, insomma Real non favorito. Fammi le carte della Champions. Ma la Champions è impronosticabile. Il Liverpool, secondo me l'anno scorso con quello scivolone di Gerrard ha perso un'occasione quasi irripetibile. E quest'anno secondo me può essere una squadra della Champions League, nel senso che può essere un outsider, è un po' lo stesso discorso della Juve e volendo anche della Roma, anche se la Roma ha un girone complicato. Per me in Champions, in Premier League quest'anno il Chelsea vince con 8 giornate d'anticipo. E per quanto riguarda il Real, in questo momento il Real è una squadra chiaramente in difficoltà, con qualche problema, forse anche con qualche dissidio interno che in qualche modo sta incidendo, e con delle difficoltà difensive che si sono viste ad esempio nel match con l'Atletico. Però da qui a 7 mesi non sappiamo com'è il Real. Io mi ricordo che faccia aveva Ancelotti l'anno scorso quando arrivò a Torino, sembrava abbastanza stressato e pochi mesi dopo avrebbe vinto la decima. La Champions non si può pronosticare, si possono pronosticare dei valori assoluti, ma poi la Champions spesso vi sorprende. Non dimentichiamoci che negli ultimi anni l'ha vinta il Porto in una finale col Monaco, l'ha vinta il Chelsea che non sapeva neanche come ha fatto arrivare in finale dopo le due semifinali col Barcellona, con Di Matteo come allenatore, tutto rispetto, ma insomma arrivato all'improvviso. La Champions è questa roba qui, è una cosa che si decide poi andando avanti, dove è importante semplicemente superare gli ostacoli di volta in volta e dove ogni volta al turno successivo si riparte da zero. Sì, la Champions è anche casa di Mourinho, oggi sottolineava qualcuno, Ricky, siamo alla seconda stagione che storicamente, tradizionalmente per Mourinho è la stagione in cui tenta il salto in Europa. Sì, però bisogna vedere quello che diceva Pierre, se veramente riesce ad andare in Premier League, come io penso, a vincere con un po' di giornate d'anticipo, magari si può concentrare nel finale di stagione più sulla Champions, tralasciando il campionato e puntando a una doppietta favolosa. La squadra è straordinaria, perché l'anno scorso aveva delle mancanze, poi ha comprato l'Atletico Madrid e unendo le due forze è diventata un'ottima squadra. Però tornando alla griglia iniziale, su cui sono d'accordo, quella di Paolo Condò, Chelsea e Bayern davanti, più che Real e Barcellona forse il Paris Saint-Germain potremmo provare a metterlo un pizzico avanti, perché l'esperienza degli ultimi anni più la voglia di Ibrahimovic di lasciare un segno in Champions potrebbero fare la differenza, e magari quest'anno potremmo metterla tra le prime quattro al posto di una delle due spagnole. È vero che lo diceva Pierre che il Real ha cominciato male anche l'anno scorso, ma secondo me la cessione di Di Maria è sportivamente parlando una tragedia. Sì, Ancelotti libero di farsi prendere da una crisi di nervi anche, per come gli hanno smontato il giocattolo. Per la legge dei numeri non è facile rivincere la Champions. No, non è mai successo, non è mai successo. Appunto, proprio perché è una competizione, mentre sul campionato hai la possibilità magari di avere una superiorità schiacciante che si perpetua nel tempo, in Champions insomma la differenza la fanno delle motivazioni, la fanno delle energie anche mentali, anche nervose che insomma, ogni Champions vinta secondo me ti lascia degli effetti insomma perdi per quello che hai passato. In tutto questo stiamo dimenticando, o comunque non abbiamo citato, il Barcellona, che quest'anno sta viaggiando un po' sotto traccia, Ricky, però alla fine in Liga è partito bene. È difficile non considerarlo tra le favorite, perché comunque c'è Messi, c'è tutto. C'è Messi, Neymar e c'è anche Suarez. Manca Suarez, ma arriverà. Luis Enrique comunque delle intuizioni ce l'ha, pensiamo al gol di Okaka di ieri, insomma è uno che a Roma lui voleva far giocare, poi alla fine per tutta una serie di situazioni non l'ha più fatto giocare, però aveva visto qualcosa in Okaka. Io penso Luis Enrique sia un buon allenatore, però allenare il Barcellona è complicato per le pressioni che hai, per la gestione del gruppo. Poi lui è uno che ama rischiare, ama stupire, ama mettere Munir pronti via a titolare, quindi intanto prende anche dei rischi eccessivi, però il Barcellona ha un potenziale enorme davanti, dietro secondo me non è proprio al top. Sì, non è il miglior Barcellona degli ultimi 10 anni, però potrebbe anche bastare la qualità davanti. Ci dobbiamo fermare, grazie Riccardo. Grazie a voi, ciao Pier. Grazie Riccardo Trevisani. Pier, stai lì, torniamo subito dopo il GR delle 15. Bet Corner. Quote e pronostici. Torna a risuonare questa notte la dolce melodia della Champions League nel primo martedì da Leoni della stagione e tocca subito alla Juve di Allegri impegnata allo Stadium alle 20.45 contro il Malmo. Nella prima giornata del gruppo A sono queste le quote SNAI per il match dei bianconeri. Juve favorita con l'1 quotato 1.15, l'X è a 7.50, il 2 invece con la vittoria del Malmo è quotato addirittura 18. Nello stesso gruppo della Juve c'è anche Olympiacos Atletico di Madrid. L'1, la vittoria dei greci, è quotata a 4, l'X è a 3.30, il 2 invece è quotato 1.95. La gara clou della serata però si gioca al Westfalenstadion di Dortmund tra Borussia ed Arsenal. Due scuole di pensiero, due elite del calcio a confronto. L'1, la vittoria del Borussia, è quotata a 2.05, l'X è a 3.50. Il successo degli inglesi, il 2, è quotato addirittura a 3.50. Nel gruppo B, Real in campo contro il Basilea. L'1, la vittoria dei detentori del titolo, è quotata 1.12, l'X è a 8.50. Il 2, con il successo degli elvetici al Bernabeu, è quotato 20. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi. Noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. Y al poro pompero, poro pompero, pero, poro poro pompero, pero, poro poro pompero, pero, poro poro pompero, poro pompero. Ma che succede che siate tanto così? Non avete niente altro da fare che venire qua? Buongiorno a tutti. Io non dico mai niente sulla partita, né la formazione mia, né nel fatto che facciamo sempre la stessa cosa, anche l'abbiamo fatto prima di Empoli, studiamo nel migliore dei modi forza o forze e debolezze della squadra avversaria. Il CSKA è una squadra che ha tanta qualità. Dobbiamo entrare in questa Champions con molto entusiasmo e con il fatto di godere ogni secondo di questa partita, anche se ci saranno momenti difficili durante la partita. Sono tranquillo, sereno, non c'è per me in Champions non c'è nessuna pressione. Ognuno ci vede già fuori dai ottavi di finale. Per noi sarà l'esploit di superare il girone. In caso di non vincere domani non sarà chiuso la cosa. È un campionato ma molto stretto, molto piccolo. CSKA 2 volte su 3 è in Champions League. Ha esperienza o è in Champions League o è in Europa League, ha una esperienza dell'Europa molto più alta di noi, ma noi sfrutteremo il fatto di giocare in casa con tutti i nostri tifosi indietro. Loro hanno talento e velocità davanti, ma noi dobbiamo fare in modo di imporre il nostro gioco, di essere intelligente. Bello carico, Rudy Garcia, Pier. Beh, sicuramente carico, per la Roma è un grande ritorno, ci sarà la bolgia classica, ci sarà un entusiasmo incredibile, anche se poi in realtà sento anche dei tifosi romanisti priorizzare più sul campionato. Credo che la partita di domani sarà importantissima da questo punto di vista, perché se la Roma vince a quel punto probabilmente prende fiducia per giocarsela in Champions League a un certo livello. Se non dovesse vincere, forse a quel punto inconsciamente potrebbe anche scattare l'idea che poi alla fine il campionato sarà l'obiettivo più importante e quello più raggiungibile. Insomma, con tutto il rispetto, è molto triste da pensare, però è difficile immaginare le italiane e la Roma con quel girone in maniera particolare capace di vincere la Champions. Poi speriamo ovviamente di essere smentiti. Sì, io questa cosa però fatico a capirla, questa cosa che in fondo la Champions possa essere un'avventura di contorno e siamo soltanto a cos'è il 16 settembre oggi, 800 24 00 24. Tre giorni fa ad esempio Rudy Garcia aveva detto non è assolutamente così, non si penserà in nessun modo alla Champions costruendo la formazione che deve giocare contro l'Empoli. Abbiamo visto che in realtà il turnover l'ha fatto. Assolutamente no, ma infatti la prima indicazione è stata quella da turnover, anche se a lui non piace questa parola, però insomma io credo veramente che sia stata una grandissima dimostrazione del fatto che lui alla Champions League ci tiene, al punto che qualche rischio se l'è preso, secondo me, a Empoli. Quindi abbiamo, da quello che abbiamo visto l'altro giorno, la Champions è il primo obiettivo, se dovessimo ragionare così proprio in soldoni è il primo obiettivo. La verità è che poi insomma si deciderà, lo scopriremo solo vivendo, insomma. Io credo che questa prima partita, ripeto, sia quella importantissima, perché la Roma gioca contro l'avversario sulla carta più abbordabile in casa la prima partita, e quindi se dovesse vincere potrebbe tirar fuori grandi energie, se non dovesse farcela magari andando avanti potrebbe anche fare qualche calcolo. Però insomma sono d'accordo con te, la Champions figura di se non va onorata soprattutto a metà settembre. Sì, se c'è da mettere in piedi un miracolo bisogna farlo adesso. Vado a memoria, girone d'andata, c'è questa partita col CSKA, poi c'è la trasferta a Manchester e poi c'è il Bayern di Monaco in casa. Il girone di ritorno sarà certamente più difficile rispetto al girone d'andata, e quindi se si deve pensare di creare i presupposti per una qualificazione che sarebbe clamorosa, ma c'è già un'esperienza, quella del Napoli nel primo dei gironi della morte, quindi significa che si può fare. Sì, ma infatti, ma si può fare, c'è anche il Napoli l'anno scorso, quella con i 12 punti invece più sfortunata, ma il Napoli è già eliminato dal Manchester City. Io non credo che la Roma sia battuta, oltretutto il City è una squadra che storicamente non ha una tradizione così eccezionale in Champions League e in Europa. È una squadra, a questo punto di vista, che ha ottenuto dei risultati importanti in campionato, vincendo due volte la Premier negli ultimi anni, ma insomma non è onestamente il Bayern o il Barcellona o il Real Madrid come lignaggio europeo, quindi le possibilità ci sono tutte, e la Roma quest'anno tra l'altro ha anche una rosa particolarmente profonda, io lo ribadisco, secondo me non ha migliorato in assoluto non ha migliorato gli undici, però ha sicuramente migliorato nettamente come qualità complessiva, come profondità della rosa, e quindi sembra una squadra nata per le tre competizioni. Sì, io penso sia poi anche qui questione più di mentalità, di approccio. Mi rifaccio sempre a quel Napoli lì, quello di 3 anni fa, quello che non ebbe paura sin dalla prima partita di affrontare un girone dove tutti lo davano spacciato. C'era il Bayern Monaco, c'era il Manchester City, c'era il Villarreal, che allora comunque era una seminobile del calcio europeo. Il Napoli non ebbe paura e piano piano costruì l'impresa. Ecco, io credo che il segnale positivo della Roma da domani sera sarebbe proprio dimostrare questo, perché poi il CSKA è battibile, è abbordabile, però a patto di crederci. Sì, bisogna crederci, certo, bisogna crederci, e bisogna destinare ogni singola goccia di sudore, ogni singola energia per questo obiettivo, senza se, senza ma e senza fare ragionamenti. E poi se facciamo una valutazione più complessiva, più astratta, secondo me, ribadisco, il campionato per la stagione della Roma di quest'anno è un obiettivo più alla portata, difficile, complicato, ma sicuramente più facile della Champions League. Però insomma sono ragionamenti, ne parlavamo ieri sera con Pasquale a Pitaca, sono ragionamenti che facciamo noi valutando da fuori. Poi il calciatore ci tiene a vincere, a giocare alla grande tutte le partite, e soprattutto una competizione come la Champions League crea un effetto di arrapamento, si può dire arrapamento, sì, nella testa del calciatore, che è tale che poi alla fine faranno il massimo, anzi semmai in certe circostanze all'adrenalina magari a Empoli puoi non avercela, ma figurati in casa quando sei all'esordio in Champions League con quella musichetta lì. Sì, anche perché molti la Champions di questa Roma non l'hanno nemmeno vista. 800 24 00 24 vi aspetto anche con i vostri pronostici per questa sera, per il debutto della Juventus Malmo, anche per la Roma che gioca domani sera contro il CSKA a Mosca. Poi fra qualche minuto, Pier, ti faccio sentire Totti, 38 anni fra 10 giorni. Adesso però c'è Alessandro dalla provincia di Modena. Alessandro. Sì, buongiorno, salve. Prego. Allora io trovo un po' ingiuste un po' le troppe critiche Conte fatte, perché in ben due anni che ha allenato in Europa non ha vinto. Ci sono allenatori come Wenger che non so cosa possono aver vinto a livello internazionale, ma sono considerati dei grandi allenatori. Anche lo stesso Alex Ferguson, se non sbaglio, prima di vincere con il Manchester sono passati diversi anni. Vorrei ricordare che Conte il primo anno è uscito dopo aver battuto il Chelsea, dopo aver battuto il Celtic, dopo aver battuto lo Shakhtar. Se al posto del Bayern incontrava il Malaga poteva arrivare tra le prime quattro in Europa. Tra l'altro si è dovuto trovare a giocare a Monaco di Baviera con Isla e Peluso, che erano i marcatori di Robben e Ribéry. Perciò di cosa stiamo parlando? Sì, io credo che si stia parlando soprattutto di quello che è successo l'anno scorso, ma che in parte era successo Piera anche nel primo girone. Prego però Alessandro. Sì, no, vorrei solo anche finire, perché sono allenatori che si trovano al 90esimo eliminati, poi una papera del portiere permette di passare i turni. Ci sono degli allenatori che vincono la Coppa al 93esimo. Certo, ci sono anche allenatori che si trovano a andare a giocare a Copenaghen con 30 pale gol, che al posto di Cavani si trovano Giovinco, Vucinic, che non la mettono dentro. Ci sono allenatori che purtroppo Bonucci passa la palla indietro. Sì, Alessandro, però se Bonucci passa la palla indietro e tutte quelle cose lì che hai raccontato, ti immagino tifoso della Juventus, giusto? Non trovo che sia colpa di Conte. Sì, no, non è colpa di Conte, però diciamo Conte è un pezzetto della costruzione di quei progetti. E poi ripeto, Pier, mi pare che la colpa di Conte, la cosa che di cui si dia colpa a Conte, non è tanto il Bayern Monaco della prima stagione quanto la gestione del girone dell'anno scorso. Sì, assolutamente. Io credo che l'unico vero fallimento di Conte negli anni alla Juve sia stata l'Europa l'anno scorso, in particolar modo la Champions League, poi anche l'Europa League in qualche modo poteva essere portata a termine in maniera diversa, ma insomma è stato l'unico vero fallimento essere eliminato il girone lì con quelle squadre, con gli avversari del Madrid, Galatasaray e Copenaghen. È stata sicuramente l'unica volta che, usando il linguaggio di Barisoni, underperform, cioè ha sottoperformato rispetto a quella che era la qualità della squadra. In campionato invece ha sempre fatto di più di quello che si poteva immaginare, tantomeno ha fatto quello che si poteva immaginare. Quindi poi sono d'accordo con l'ascoltatore, insomma la Champions League è certamente, rispetto a una competizione di 38 giornate, una competizione più liquida, più leggera, nella quale il singolo episodio ti può favorire o sfavorire. È una competizione nella quale è più probabile che ci possano essere sorprese rispetto alla quotidianità di 38 partite di campionato, dove alla fine, se c'è una squadra più forte, anche numericamente più forte, quantitativamente più forte come numero di opzioni di giocatori di un certo livello, alla fine porta a casa la vittoria. Sì, Fabio scrive al 349-238-6666, scommette per un 2-0 della Roma, 2-0 della Roma domani sera contro il CSK a Mosca. Emanuele da Trapani. Salve, ci ho chiamato per dire una cosa sostanzialmente, che per la prima volta sono in disaccordo con Pierre e mi dispiace, perché questa Juventus rispetto a quella dell'anno scorso io la trovo nettamente più forte. Non negli 11 titolari, ma a livello di rosa sì, con la rosa dell'anno scorso oggi avremmo giocato con Padoin invece di Evra. E abbiamo comunque degli incassi maggiori. L'anno scorso, quando pareggiamo 1-1 col Copenaghen, dovremmo far entrare De Ceglie, quest'anno fortunatamente non c'è, e in attacco comunque abbiamo giocatori come Morata e Coman, che secondo me qui è più soggettiva, però possono tagliare, come non so, il termine tecnico, una partita meglio rispetto magari a un Vucic che era infortunato, o con le pantofole, un Quagliarella che la panchina non la sopportava granché. Sì, possono aprirla se si dovesse trovare della difficoltà in questo senso. Una cosa, se posso, soltanto che voi fate il paragone di questa partita, cioè paragonando alle partite dei due gironi, no, che abbiamo pareggiato, soltanto a livello statistico, oggi giochiamo in casa, le due partite giocate in casa con la squadra più debole del girone le abbiamo sempre vinte. È un dato statistico anche questo da tenere in mente. Poi il debutto è sempre importante in un gironcino corto come può essere un gironcino con soltanto quattro squadre. Pier, sulla Juve più o meno debole? No, ma vale tutto, il contrario di tutto. Non mi sembra una squadra particolarmente migliorata o particolarmente peggiorata, non vedo una svolta. Ora è auspicabile, possibile, molto probabile che l'Europa faccia meglio dell'anno scorso, perché ci vuole poco. È possibile che il campionato faccia meno, almeno dal punto di vista quantitativo, perché l'idea che possa fare 102 punti è abbastanza difficile. Ora, la combinazione di queste due di questi due elementi ci darà il risultato finale della stagione. A me sembra sempre la favorita del campionato, anche se la vedo meno dominante rispetto a un anno fa, però la considero sempre la favorita e mi aspetto che in Europa faccia meglio, ecco, quindi mi aspetto che possa crescere in Europa e faticare di più il campionato, ma il livello è quello. Poi possiamo discutere, ovviamente nessuno di noi sa se Coman, che si è presentato da predestinato, sarà già pronto per fare una super stagione migliore di quella che hanno fatto l'anno scorso Vucevic, Quagliarella e Giovinco, e lo stesso discorso per quanto riguarda Morata, insomma, possibilmente sì. È vero anche di contro che magari i giocatori un pochino più stanchi rispetto a un anno fa, qualche scricchiolio in difesa in più potrebbe esserci, non lo so, insomma, però non mi sembra né clamorosamente peggiorata né clamorosamente. Sì, a me sembra abbastanza simile a quella dell'anno scorso. Saluto Roberto Renga, ciao Roberto. Sì, buon pomeriggio a tutti, vi faccio sentire questo ragazzino, 38 anni fra 10 giorni. E un'altra domanda, se la dimentica di nuovo. L'età passa, però fortunatamente non si sente, è la verità. Poi quando sarò il primo io a dirlo e a mettermi da parte quando non ho più la forza di stare dietro ai miei compagni. Perché pensi che sia cambiato il calcio italiano? Che cosa ha rotto il giocattolo? E soprattutto gli stranieri, adesso si dice ce ne sono troppi. Che cosa pensi? Che ci sono squadre più forti. Affrontiamo squadre blasonate, squadre molto forti e può succedere qualunque cosa. Però cercheremo e speriamo di fare come ha fatto l'Atletico Madrid. Non sarebbe male. Oh, questo è Francesco Totti. Roberto Renga, la Roma gira sempre intorno a Totti? Sì, da quando è nato Francesco, proprio nato no, ma insomma, diciamo da quando è nato come giocatore, ormai sono una ventina d'anni e la Roma gira sempre intorno a Totti, sia nei momenti buoni, perché ce ne sono stati, sia nei momenti cattivi quando lui l'ha salvata. Posso dire una cosa, dice fino a quando ce la farò? Parlandoci nei giorni, qualche tempo fa, non proprio qualche settimana fa, lui mi ha fatto capire che è convinto di superare i 40. Sì, lui ha detto, l'ha detto anche oggi, ha detto ma in fondo in questo momento non sento la fatica, non sento il peso degli anni, sto bene, posso andare avanti. Secondo me c'è anche una gestione intelligente che ha cominciato a fare Garcia, non credo sia un caso che Totti sabato a Empoli abbia riposato. No, io sai, io penso soprattutto alla gestione intelligente fatta da Totti di se stesso e quella fatta da Vito Scala, che lo conosce perfettamente e sanno cosa può rendere. Io per esempio, conoscendolo, so che magari lui un tempo l'avrebbe fatto tranquillamente, magari gli sarebbe servito anche per riscaldarsi in vista della Champions, ma va bene tutto, poi la Roma ha vinto, non ha giocato bene ma ha vinto, quindi insomma va bene, quindi alla fine ha ragione Garcia. Questo è un ragazzo strano, non sappiamo quando smetterà. Pier, gira sempre tutto intorno a Totti. Io voglio provocarti, non rischia di essere anche un po' il limite della Roma? Ma è il limite del cuore, è il limite del sentimento, ma sì, probabilmente in certi momenti, secondo me negli ultimi anni non tanto. C'è stato un momento in cui la carriera di Totti sembrava 4-5 anni fa potesse cominciare a declinare, poi improvvisamente lui ha fatto questo dribbling all'età e negli ultimi anni sta facendo cose pazzesche. È chiaro che giocatori così in qualche modo ti condizionano sempre, ma anche Del Piero condizionava a Torino con la Juve, non è che non condizionasse. In più qui c'è un legame profondissimo di romanità che rende il giocatore un tutt'uno con la maglia, con la squadra, con la tifoseria, quindi sì, se vuoi da un punto di vista analitico, freddo, razionale, posso essere anche d'accordo. Ci saranno anche stati momenti in cui Totti avrà condizionato qualche scelta di qualche allenatore, però insomma se discutiamo Totti di che parliamo? Cioè stiamo parlando del giocatore più forte per distacco della storia della Roma sotto ogni punto di vista, è uno dei più grandi giocatori della storia del calcio italiano di sempre, per cui francamente, insomma, si fa fatica a dire. Sì, è l'ineluttabilità che si debba partire sempre comunque da Totti, ad esempio in questo che è il passo di debutto in quello che dovrebbe essere l'obiettivo numero uno almeno di questa fase della stagione. Poi Roberto, c'è chi scrive: Paolo al 349-238-6666, in Serie A non si corre, quindi Totti potrebbe giocare anche fino a 50 anni. Beh, devo dire, questo mi sembra una buona teoria. Una buona lettura. Ieri sera ho visto, immagino l'avrete vista anche voi, la partita tra il Verona e il Palermo, e io ho faticato a non addormentarmi. Proprio il ritmo è terrificante, cioè, si gioca a zero all'ora, non a due all'ora, ma a zero all'ora. Quindi a questo ritmo penso che Totti possa farcela lungo. E dopodiché volevo dire che è vero che può essere un freno per una squadra avere soltanto un giocatore, però basta andare all'estero per rendersi conto che tutti chiedono soltanto di Totti, che le magliette vendute sono quelle di Totti, che Totti è per tutti la Roma. E certo, capisco che sarebbe meglio avercene 11, però anche il Napoli aveva solo Maradona alla fine. Ma poi 11 sarebbe impossibile per un discorso proprio. Dove li troviamo? Perché se sono 11 non c'è più l'unicità. No, Ma sai che a proposito di 11, sai che lui era forte anche in porta? Certo. Lui ha fatto talmente tanti ruoli anche fuori in attacco che non è stato soltanto un Totti, ne abbiamo viste mille edizioni nella sua carriera. Dicevi, c'è una foto? Una foto proprio qui dico perché io adesso in questo momento sono qua a Torvaianica, nella spiaggia, ripresa in spiaggia, in cui si vede lui volare, ma più di un metro di altezza in linea orizzontale. Aveva, non lo so, 8-9 anni. Lui comunque dopo i 40 giocherà davanti alla difesa, per cui il problema sarà eventualmente del De Rossi. Sì, e dopo i 50 scalerà fino alla porta, no? Dai, in porta. Mi dici al volo, poi ti saluto, l'obiettivo realistico della Roma? Perché che sia un girone difficile l'abbiamo detto, sì, certo. Che si possa fare l'abbiamo sottolineato, che ci sia la forse la tentazione La Roma può arrivare seconda. Io non so, è difficile che chi ha fatto bene l'anno prima possa fare benissimo anche l'anno dopo. Io per esempio non sono così convinto che il Bayern quest'anno sia così forte come negli anni passati, o che il City possa ripetere la stagione scorsa, ma ricordiamoci che il City comunque a livello europeo non ha mai fatto benissimo. Dopodiché la Roma è certo con il CSKA, che è una buona squadra, ma se la deve giocare la deve battere. Secondo me intanto è fondamentale vincere la prima, e poi si vede, la Roma seconda può arrivarci, a tutto, a giocatori esperti di classe internazionale. Come entità è inesperta a livello di Champions, perché qualche anno che non ci va, ma ricordiamoci che le ultime volte è sempre arrivata tra le prime otto comunque. Sì, ricordiamoci ad esempio che invece il Manchester City due volte in due gironi della morte e due volte eliminato, perché anche gli altri devono temere la Roma. 800240024, ti saluto Roberto. Grazie, buon pomeriggio, buona Champions a tutti. Grazie, ciao. Roberto Rengo, un abbraccio. Ciao Pier, a domani. Ciao, a domani. Torna Carlo Gente, lo dico anche agli amici da casa. Noi siamo ancora in onda fino alle 16. Je ne parle plus. E a Torre Fer. 50 anni e non ci pensa. Augur, mister. Tutti convocati. Ma insomma, come si permette? Matta sarà lei. Io sono sua moglie. No, io sono sua moglie. Mi vuoi dire che cosa succede? Sì. Sì, anche a me. Pure a te. Vabbè, adesso calma. Che? A tutto c'è una spiegazione. Che sarà mai? Andiamo. Che fate? Che volete sapere esattamente? Qual è la domanda? Non so niente, non mi interessa adesso. Sapeste quante volte avrei voluto dirvelo, ma non ci sono mai riuscito. Sì, sono uno stronzo. Ma il problema è che io ti amo, Silvaccia. No, anche te, Serena. Scusatemi tutti. Vi ho detto delle bugie, ma l'ho fatto perché vi volevo bene e non volevo perdervi. Perché io senza di voi che faccio? Come vivo? Dovreste amarvi come io vi amo. Perché amare è anche dare, anche... Sì, se ne sono andati. Andate a morire ammazzati. Ma che si fa così con una persona? Ma che si dice in inglese andate a morire ammazzati? No, notizie da Liverpool. 800240024. Secondo il Sun, Balotelli, flirtando con due ragazze contemporaneamente attraverso SMS espliciti, si è accorto troppo tardi che le due non solo si conoscevano, ma condividevano lo stesso appartamento, erano grandi amiche e insomma hanno smascherato il doppio gioco. Tutto è finito anche sui tabloid, lo scrive oggi il Sun, che si sta divertendo da pazzi dopo il ritorno di Balotelli nella Premier League. Un paio di giorni fa la notizia della parrucchiera scaricata in taxi dopo 3 ore di sesso. Balotelli aveva detto: mi piace e mi fa giocare meglio. Lei ha detto: pensavo fosse cambiato. Oggi la notizia, insomma, l'avete sentita. E poi notizie da Napoli, dove si fa fatica a trovare il filo di un inizio stagione disastroso. De Laurentiis, che tra l'altro è volato negli Stati Uniti non tanto per meditare ma quanto per trovare investitori. Questa è una notizia che vi do fresca, fresca. Deve incontrarsi con dei manager che dovrebbero prendere le quote del Napoli. Saremo ma per vendere, oppure per avere dei soci per investire di più? No, io credo proprio per vendere. Sono personaggi che lui ha conosciuto tramite un regista americano a Roma, adesso andrà lì a contrattare la vendita del pacchetto di maggioranza del Napoli, anche perché De Laurentiis ha capito che più di questo non può fare. E questa sarebbe una notizia clamorosa, l'avete riconosciuta la voce, Raffaele Auriemma, che è anche un amico di tutti i convocati. Ieri sera a Tiki Taka, De Laurentiis è in America, ed è in America oltre che per affari suoi, anche perché sta cercando investitori per il Napoli, anche perché starebbe cercando qualcuno in grado di rilevarlo alla guida del Napoli. Ci sono problemi burocratici, ci sono i problemi delle strutture. Però c'è la sensazione che il progetto a Napoli sia poco chiaro in questo momento, forse il progetto societario, di sicuro il progetto di una squadra che deve ancora assorbire il colpo dell'eliminazione dal preliminare di Champions. E poi Zamparini, che oggi ha dettato al sito del Palermo questo comunicato. Un importante giornale sportivo nazionale oggi titola: Iachini rischia, informazione stupida e cattiva. Pisano va al cross, palla passa, Dybala cerca il tacco, Bolzoni, Vasquez! Palermo in vantaggio, è il gol del mudo, Franco Vasquez, 1-0. Messo giù in area di rigore Toni. Toni cambia angolo ed è perfetto, Luca Toni, primo gol in campionato. Taxidis serve Juanito Gomez, Pisano in anticipo, palla buona, Juanito segna il Verona con la caparbietà, Juanito Gomez, 2-1, partita ribaltata. Non penso che tu sia contento della prestazione. Sono felicissimo, sono strafelice, non potevo essere più felice di questa serata. Anche della prestazione? Ma bellissima, vincere così con fatica, sacrificio, penso certo, che sia, certo, sia cosa più bella che ci possa capitare. Poi verranno tempi migliori, speriamo, o magari verranno tempi peggiori, io non lo so, però io credo che le difficoltà ci sono per tutti e noi abbiamo avuto più occasioni di loro, potevamo fare meglio, lo so che possiamo fare meglio, però abbiamo vinto e questo ci permette di star sereni, tranquilli, perché già non vince stasera. Cominciavi tu a già rompere le scatole, come già hai fatto anche se abbiamo vinto, quindi siamo contenti e dobbiamo continuare su questa strada attraverso il sacrificio, lo spirito. E insomma, Mandolini contento, malgrado la prestazione del Verona, Zamparini un po' meno. Però in estate Zamparini aveva detto che Iachini sarebbe stato il Simeone del Palermo per costruire il progetto come l'Atletico Madrid. Oggi l'ho letto in comunicato, confermato, informazione stupida e cattiva, chi ha scritto che Iachini rischia. 800240024 Cesare, dalla provincia di Venezia. Cesare. Sì, grazie. Ti ringrazio. Buongiorno. Per l'attesa, prego. Tranquillo, tranquillo, bisogna parlare. Grazie per essere stato convocato. Io volevo parlare di una partita di Serie B che ho visto sabato. Sì. Brescia-Entella. Di un'entrata che ha fatto un giocatore ai danni del signor Ivano Baldanzetto. Non so se lei l'ha vista. Sì, immagini terribili con l'appendice surreale dell'arbitro che non ha fischiato neanche fallo. Niente. Oggi leggo lesione multilegamentosa del ginocchio destro, crociato anteriore, crociato posteriore e collaterale interno. Sì, un anno di assenza dei campi. E l'arbitro non ha visto niente. Scandaloso. L'ascolto per radio e grazie mille. Sì, sì, c'è poco da aggiungere, basta vedere le immagini, ripeto, immagini abbastanza impressionanti. Non solo l'arbitro non ha visto nulla, c'è anche uno dei due assistenti di linea sotto gli occhi del quale avviene il tutto. A volte evidentemente dal campo si può far fatica a capire la gravità di certi interventi che poi in televisione sono chiarissimi. Non mi sembra questo il caso, però questo è successo. E Balzanzeddu, questo il nome del giocatore dell'Entella, ha di fatto finito la sua stagione e tornerà tra un anno. A proposito, oggi giudice sportivo della Serie A, 3 giornate di squalifica per Berardi per la gomitata a Juan Jesus durante Inter-Sassuolo, gomitata sul 5-0 e gomitate d'espulsione che costeranno anche una bella multa a Berardi, che è recidivo. Cambiamo argomento, parliamo di doping. Claudio Gatti, ciao. Ciao. Claudio Gatti, collega del Sole 24 Ore, che settimana scorsa per primo ha parlato del sistema alle spalle di Alex Schwarzer, dell'inchiesta della Procura di Bolzano, che oggi riempie le pagine dei giornali. Poi ne parliamo. Io volevo però dirti che l'aspetto che più mi colpisce è che oggi, proprio con i giornali pieni di nomi, di storie, di aneddoti, in tanti lasciano intendere che tutto era abbastanza noto, compreso l'omesso controllo. Ecco, questo è un aspetto che io trovo abbastanza sorprendente. Purtroppo ci ricorda quello che disse Bettino Craxi quando esplose Mani Pulite, così fan tutti e sia in Italia che fuori. È vero, gli addetti ai lavori lo sapevano, quelli che a non saperlo erano gli sportivi. Sì, stiamo parlando di omessi controlli, di atleti che sostanzialmente erano invisibili all'antidoping, di una rete di complicità, di qualcosa che oggi c'è un quotidiano che definisce una burla i controlli antidoping in Italia per parecchio tempo, soprattutto prima delle Olimpiadi del 2012. Assolutamente sì, c'è addirittura un'intercettazione depositata in cui il medico della FIDAL definisce il sistema un colabrodo. Ma di chi è la colpa? Direi, diciamo, del sistema. Per anni sono stati trovati atleti che si dopavano, che violavano le regole, ma la vera verità è che dopo gli anni del cosiddetto doping di Stato, in cui Conconi era pagato dal CONI per fare emotrasfusioni e alterare artificialmente la performance atletica degli sportivi, si è trovata adesso una situazione in cui il sistema dice all'atleta: fai quello che devi fare e cerca di, diciamo, di proteggere, ha cercato, anzi parliamo del passato finora, perché è il passato che è stato analizzato, ha cercato di proteggere e fare in modo che non venisse mai beccato, però nella consapevolezza che nel momento in cui fosse beccato il sistema avrebbe detto: ah, che delusione, siamo sorpresi, non ce lo saremmo mai aspettato. Pensiamo a quello che è successo a Londra nel 2012 con Spazzer. Alla vigilia delle Olimpiadi i vertici del CONI e della FIDAL dichiaravano Spazzer l'uomo punta dell'atletica italiana, la speranza maggiore, pur sapendo tutti che era un atleta problematico e che per anni c'erano voci di accuse di doping. Quando poi è stato beccato dalla WADA, cioè dall'Agenzia Mondiale, non dalla FIDAL o dal NADO del CONI, hanno detto: ah, che delusione, ah, che sorpresa. Sì, copione abbastanza consueto in queste vicende. Claudio, ti chiedo un minuto, c'è il traffico, poi andiamo avanti perché c'è anche una lista di 38 atleti che sarebbero sanzionabili, regolamento alla mano, lista che qualcuno ha pubblicato e qualcun altro no. Mi piace provare a fare chiarezza. Traffico. Beppe vuol fare con voi una squadra che io ammiro, che è l'Atletico Madrid, che ha un allenatore come Beppe. È la strada che non voglio percorrere, perché abbiamo scelto soprattutto, e rimarranno con noi, gli uomini, e voi siete una squadra di uomini che noi vogliamo tenere. In bocca al lupo a tutti voi a questo campionato. Grazie. Tutti convocati. Oggi alcuni giornali non pubblicano la lista dei 38 atleti più volte irreperibili ai controlli antidoping, semplicemente perché quella lista in cui bisognava inserire il proprio indirizzo, la propria reperibilità, in Italia non veniva compilata. Alcuni quotidiani non pubblicano quella lista perché spiegano ci sono diversi livelli di responsabilità. Claudio Gatti, tu so che l'hai pubblicata sul tuo blog. Sì, io approfitto per dire che e farmi autopubblicità, ma il blog gradozeroblog.it continuerà a pubblicare nuove informazioni che non sono ancora uscite, perché lo scandalo non si è ancora esaurito, né le rivelazioni, perché ci sono nuove cose in più. Io su questa cosa lavoro da 2 anni, quindi ho delle informazioni aggiuntive. Nel blog ho pubblicato la lista per il semplice motivo che la lista è stata resa pubblica di fatto nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, e le regole internazionali prevedono che un sistema sportivo nazionale faccia in modo che gli atleti comunicano i propri spostamenti, siano obbligati a farlo, e se non lo fanno per 3 volte nel giro di 18 mesi oppure non si fanno trovare al test a sorpresa, che non dimentichiamo è l'unico test che ha la possibilità di veramente beccare gli atleti, perché sono i test fuori competizioni, inaspettati, che portano hanno più probabilità di successo. Quelli in competizione tutti gli atleti sanno come evitare di essere beccati, e in questo caso sono stati trovati 38 atleti e atlete che avrebbero potuto essere squalificate se fossero state applicate le regole, cioè se le notifiche fossero state chieste veramente, come è capitato a tanti altri e tanti altri atleti in giro per il mondo, quando per 2 o 3 volte non sono risultati reperibili a questi controlli a sorpresa. Ci sono anche nomi di primo piano dell'atletica italiana, non sono necessariamente dopati questi atleti? Assolutamente no, non hanno rispettato la regola e l'obbligo di comunicare il proprio spostamento, oppure non si sono fatti trovare dove avevano dichiarato di essere. Nel caso di Spazer, per esempio, lui per 3 volte ha avuto i cosiddetti miss test, cioè non si faceva trovare, come nell'ultimo caso quando stava in Germania, sono andati gli ispettori della WADA e Carolina Kostner ha aperto la porta e ha detto non c'è, invece lui poi in realtà c'era, ma insomma quello è un miss test. Sì, oggi abbiamo letto anche i dettagli della sua difficile convivenza con Alex Valls, le mascherine di notte, i tappi alle orecchie, la tenda per l'ossigeno, le bugie dette agli ispettori. Scusa, se ti interrompo, è venuto fuori chiaramente che c'era molta connivenza intorno, perché la Kostner, che è un atleta anche lei, quindi è soggetta agli stessi obblighi, sapeva che lui faceva uso della tenda ipobarica che è vietata in Italia e che aveva tutti questi medicinali. Però dall'indagine risulta che questa tenda è stata usata da Spazer anche in Italia, dove è vietato, addirittura negli anni in cui lui era seguito da Milano, quindi negli anni di Falluzzo, prima dell'Olimpiadi del 2008 con cui ha vinto la medaglia d'oro. Quindi anche lì il sospetto che questa cosa della tenda lo sapesse non solo Carolina, ma anche altri. Sì, che lo sapesse un po' tutto l'ambiente, lo sapessero i suoi allenatori, lo sapesse la federazione, lo sapesse il CONI. Cosa rischia Carolina Kostner? Che venerdì, ricordiamo, va alla procura del CONI. Sia dalla procura che dalla federazione internazionale rischia una squalifica di 2 anni se riconoscono che lei ha mentito agli ispettori consapevole di farlo, cosa che peraltro lei stessa ha ammesso. Ma ha possibilità di cavarsela dicendo che non aveva capito, non sapeva, non so che tipo di giustificazione potrebbe trovare. Non ci sono giustificazioni, perché lei ha mentito agli ispettori sapendo che erano ispettori. L'unica cosa che dubito che ci sia una regola specifica su una situazione come questa, perché di solito le regole riguardano gli atleti stessi e non i fidanzati degli atleti, ma essendo lei una fidanzata atleta stessa probabilmente questo rischio lo corre. Sì, ed esporrà magari a una decisione politica anche in questo caso. Per chiudere, oggi il CONI dice punta a nuove possibilità che vengono date dal garante della privacy per controllare gli atleti. Sta per essere lanciata un'applicazione per sapere esattamente dove si trovano, per localizzarli. Mi pare di aver capito, non è però soltanto un problema di tecnologie che mancassero, cioè era un problema di scelta, di volontà politica di coprire. Assolutamente sì, ma il problema di fondo sta indietro. La legge del 2000 prevedeva la creazione di un'agenzia indipendente, come nella maggior parte dei paesi civili, come negli Stati Uniti. Non ci dimentichiamo che un mito americano, addirittura con protezioni politiche che arrivavano fino alla presidenza, quale era Lance Armstrong, è stato beccato perché c'era un'agenzia indipendente che non ha mollato l'osso, anche quando la Procura Federale di Los Angeles l'aveva mollato. Cosa che in Italia non esiste. Questo è il problema di fondo. In Italia l'antidoping lo fa il CONI e, come dice Alessandro Donati, una persona che da anni combatte questa battaglia, non si può mettere la volpe a guardia del pollaio. Sì, tra l'altro abbiamo letto anche il responsabile del controllo dei controllori del CONI che dice: noi non siamo in grado di lavorare per mancanza di personale, perché poi c'è anche questo aspetto. Sì, è chiaro che se si può affamare la bestia, farla morire di fame se non la si vuole attivare. Il problema di fondo comunque, l'agenzia deve essere indipendente, non può essere parte dello stesso comitato olimpico che ha interesse che gli atleti vincano. E qui ci fermiamo. Grazie Claudio. Grazie a voi. Claudio Gatti sulla vicenda del doping. Domani torna Carlo Genta, sempre dalle 14 alle 16. Io ringrazio Franco Pietanini, autore di questa puntata. Claudia Schiattone in redazione, Roby Scaltretti in regia. A domani, ciao. Sono saggio, sono saggio. Ti ricordi il Nottingham Forest? No. Oh, ma dai. Gates guadagna un angolo, lo calcio, tu sei lì che aspetti e banco, dentro. No, no. Manchester City, Hughes dalla fascia destra per Calcelsi, Scalcelsi, spalloneto, tu sei lì che aspetti e bam, mi porta come se niente fosse. No. Arsenal, Beckham cross in mezzo, un difensore interviene, rimanda di testa, tu vedi arrivare la palla, un passo in mezzo indietro per aggiustare la misura, va, tira a mezzo volo dritta dentro, e sì, ma neanche la vista, ce l'hai presente? Non ce l'ho presente. Oddio. Dammi la forza.